Pubblicata sulla rivista Contemporaneamente Versi, direttore editoriale Luca Sardo Giambonino, una nuova poesia del poeta Nico Menchini, dal titolo Agendine. Quanti ricordi e forti emozioni camuffati da melodiosi versi su quelle pagine ingiallite, oh vecchie, care agendine. Quante volte avete raccolto gli schizzi improvvisi d'artista o forse del folle visionario spesso immacolato? Quanti cuori avete fatto sussultare, occhi e labbra a sorridere, delicate gote arrossire con i tesori in voi custoditi? Le vostre sdrucite e sbiadite pagine del fumo leggero ancora profumano, rubato ai faloni dei boschi, e il chiarore delle stelle riflettono di quelle malinconiche sere in cui ero solo, seppur tra tanti. L'impronta dei banchi di scuola portate stampata addosso, testimoni di un'era così lontana e pur dentro di me ancora viva.